Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, seconda puntata della nuova edizione di Restiamo Animali. È domenica 14 ottobre 2012. In redazione Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Valentina Reggioli, Silvia Vallecchi. E voi direte, o questa chi è? Silvia Vallecchi è una nostra nuova collaboratrice. Le diamo il benvenuto nella redazione di Restiamo Animali e le chiediamo se ci racconta qualcosa di sé. Ho fatto giurisprudenza, credevo in un mondo dove regnasse la giustizia, poi mi sono accorta dopo pochissimi anni che questo era un mondo illusorio che non esiste. Ho lavorato nel mondo della comunicazione e nel marketing, poi improvvisamente mi è stato proposto un contratto a tempo indeterminato e quindi cosa ho detto? Ho detto sì, lanciamoci in questo meraviglioso mondo, e questo mondo è durato un battito di ali. Adesso sono una super precaria, nel senso che faccio parte di quel mondo dei contratti occasionali e a chiamata. Fin da piccola sono animalista, mia madre mi portava alle manifestazioni contro la caccia e contro la vivisezione, quindi varie firme che si lasciavano ai banchini della LAV. Sono diventata vegetariana a 20 anni con svariate ricadute a seconda delle situazioni in cui mi trovavo, magari ospite da amici e fuori, perché diventa più difficile con le altre persone. Poi nel 2011 sono diventata inflessibilmente vegetariana e confrontandomi con Beatrice Montini su vari argomenti ho iniziato questo percorso nel mondo del cosiddetto veganesimo e mi sto veganizzando. Andiamo avanti per la rubrica Visti da vicino. Oggi vi presentiamo un allevatore pentito. Siamo andati a Cavour, vicino a Pinerolo, in Piemonte, dove abbiamo intervistato Fabrizio Bonetto e Michela Priotti, due coraggiosi allevatori che hanno deciso di fare una conversione. Hanno salvato tutte le loro mucche, le mantengono e oggi producono verdure per i gruppi di acquisto solidale. Il loro blog è farmserenitycov.blogspot.it, ovviamente Serenity con la Y e Cov col W, perché cow vuol dire mucca, infatti loro si chiamano una cow-munity. E le loro mucche le chiamano le cow-poop, perché poop vuol dire appunto letame. L'idea dell'origine del profitto dato dalla vendita degli animali e dal macello che li aspettava dopo averli accuditi, averli fatti ingrassare per tanto tempo, non lo faceva più dormire la notte. Fabrizio e Michela hanno deciso di tornare bambini e di rimettersi a sognare. Una vera e propria devianza rispetto a quello che accade normalmente a Cavour, un posto dove l'allevamento massivo è vissuto come la cosa più naturale e normale del mondo. Fabrizio, nel suo blog, dice di sé: presi vita unico, come tutti, poi piano piano rifilato e standardizzato come vuole la nostra società odierna. Ma ad un certo punto, proprio come avviene nello stampaggio, qualcosa andò storto e il modello deviò dal disegno prendendo un'altra strada, non conforme allo standard, ma tornò ad essere nuovamente unico, come il mio progetto. Per la musica di questa settimana, grazie a Roberto Liuzzi, spazieremo dalle Bestie Feroci del Circo, un brano della Paolino Paperino Band, un gruppo rock della provincia di Modena, a Razza Bastarda di Nadia, una promessa del panorama rock italiano, vegetariana e animalista, fino a Johnny Cash con Hurt, un mito musicale americano. Johnny Cash è morto nel 2003, e poi una canzone molto divertente, molto carina, molto acuta, La Condition Bovine del gruppo Tantadelle La Famille, un gruppo francese. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Cavour è una cittadina di 5.000 abitanti al confine fra le province di Torino e Cuneo. È famosa per il conte Camillo Benso e perché vi abitò e vi morì Giovanni Giolitti. Arrivando, si capisce dall'olfatto che l'allevamento dei bovini è la principale attività del luogo. E se mai qualcuno avesse dei dubbi, ecco all'ingresso del paese, alla prima rotonda, una specie di monumento alla mucca. È abbastanza facile capire perché Fabrizio e Michela da queste parti siano considerati un poco strani. Avevano avviato un'attività di allevamento non intensivo, in linea con la tradizione familiare di lei, ma hanno poi cambiato radicalmente strada. Oggi sono dei coltivatori diretti, gestiscono una piccola azienda agricola nella quale gli animali ci sono, ma non sono sfruttati, non sono animali da reddito. Da queste parti una vera eresia, La loro casa ha l'aspetto di una villetta a due piani, senza pretese, spaziosa, funzionale alle attività agricole, da su una strada poco trafficata ai margini del centro storico. Alle spalle della casa una grande aia affaccia sulle stalle, dove ancora vivono Prardina, Fortuna, Idea, Capinera, Gina, Carmen, Nanà, Speranza e l'ultima nata, che non a caso si chiama Veggy, come vegetariana o anche vegana in lingua inglese. Sono tutte mucche. Potremmo dire mucche da cacca. Il loro unico compito è vivere e l'azienda agricola in cambio riceve il letame per le coltivazioni. A casa di Fabrizio e Michela ci sono poi Polline, Pinky, Petra, Tajana, che formano la componente equina del gruppo, e poi tre caprette, salvate dall'ultima cosiddetta festa pasquale. Fabrizio e la moglie stanno cercando di rendere sostenibile la loro attività, il sogno cruelty free che hanno cominciato letteralmente a coltivare poco più di un anno fa. In questa puntata Fabrizio racconta come è arrivato alla scelta animalista e a divenire una guarda zoofila e un militante della Lega per l'abolizione della caccia, lui che parte da una famiglia di accaniti cacciatori, e ci racconterà come sono arrivati anche alla scelta di chiudere l'allevamento. Nelle prossime puntate parleremo degli animali non umani della fattoria. A me ha sempre attratto gli animali, mio papà mi ha tirato su, lui era un appassionato allevatore di canarini, appassionato di altri uccelli, e dunque ti dico, mi sono allevato a vedere con lui, a vedere fotografie sui libri, i documentari, dunque sono sempre stato molto attirato dagli animali, dalla loro vita. Difatti penso di aver passato più ore nei boschi che non quelli a contatto con i miei simili, e quello comunque, quando vedi gli animali nel suo ambiente, sai, comunque sì, ti innamori. Poi ho conosciuto la caccia fotografica quando ero un po' attirato dal richiamo venatorio, da questo istinto predatorio. L'ho girato, nonostante i parenti cacciatori, l'ho girato sulla caccia fotografica, che mi ha dato grosse soddisfazioni. Sai, le prede, a differenza dell'altra caccia, le puoi prendere altre volte, con l'obiettivo non nuoce a nessuno. E ti dico, di lì poi piano piano, di sicuro, frequentare il mondo ambientalista e poi animalista, piano piano comincia a prendere coscienza quando ti rapporti con persone che la vedono completamente diversa rispetto a quelle che sono le tue idee, ti metti anche in discussione, sai, dunque è nata un po' così. Ti dico, io sono sempre stato contrario all'allevamento intensivo, l'abbiamo pagata sulla nostra pelle, sì, io e mia moglie, quando all'epoca si allevava ancora, l'allevamento estensivo non è remunerativo, sai, puoi solo chiudere. Però è quello ambientalmente meno impattante, con meno impatti ambientali. Io ho visto qua attorno cosa vuol dire, anche piano piano arriva anche qua la monocultura, il mais, spariscono le lepri dei fagiani, tolto quelli immessi a livello venatorio, non ce n'è neanche più l'ombra. E sai, quando ti accorgi che a distanza di 10 anni comunque le cose sono cambiate parecchio, prima ti dico anche durante la fienagione trovavi le nidiate delle lepri, adesso ti devo dire sarà 3 anni che qua non si vede una nidiata di lepri. Tante volte mi sento accusato un po' che dici, ah sì, ma se vuoi tornare alla preistoria, secondo me ci stiamo andando alla preistoria, è diverso, cioè stiamo veramente dedicando, sfruttando tutte le risorse che abbiamo, per cosa? Per soldi, per semplici pezzi di carta, con tutto quello che adesso sta venendo fuori, perché si vede comunque il momento anche politico in cui viviamo, la gente è sempre più chiusa in spazi ristretti, e se manca il lavoro veramente uno non è più in grado di avere 2 patate da mangiare, perché non è anche più il pezzo di terra per mangiare le 2 patate. E poi io mi tengo le mie idee all'antica, sai, io ho puntato, lo vedete anche qua attorno, rinascono le siepi campestri, nonostante tutto il vicinato era contrario, loro le hanno estirpate, sono arrivate io e le ho rimesse. Però ti dico, al mattino mi accudisco gli animali con l'upupa che mi canta sopra, per me questo è il mio mondo, sai. Come è nato il passaggio dall'allevamento che curavate con tua moglie alla situazione attuale degli animali liberi? Era già un periodo che non eravamo più convinti di questa scelta qua. Uno, te lo dico proprio tranquillamente, perché non era remunerativa. Come ti ho detto prima, allevare animali trattandoli bene, predisponendo gli spazi, non ci si cavava granché. e quando sei arrivato al momento di chiudere, sai, sono animali che questi qua li abbiamo messi su noi, io e mia moglie, sai, è stato il primo grande passo che abbiamo fatto anche assieme, sai, credere in una realtà nostra, sai, lavorativa. Adesso vederle salire sul camion grande va al macello, non ce la siamo sentita. Lei mi ha detto, ah no, io il giorno che non ci voglio essere, pensaci tu, e se chiede una guardia zoofila di mandare gli animali al macello, cioè veramente non poteva finire diversamente. Mi ha detto, se hai qualche idea migliore, proviamoci. Ci siamo messi in discussione e ci abbiamo provato. Lei è un po' più scettica, anche perché arriva proprio dal mondo allevatoriale, dunque anche qua attorno non è che ci vedano così, hanno detto questi da dove sono saltati fuori. Sai, il progetto è ambizioso, non è facile, ve lo dico, non è facile realizzarlo. Queste, sai, mangiano, mangiano parecchio, finché c'è erba, quando non c'è devi avere il fieno se non ne hai abbastanza lo devi comprare. E diciamo che una mucca, perché a me non piace chiamarle vacche, ti dico costa mediamente sui 100 euro al mese. Noi al momento da questi animali qua ci ricaviamo solo le tane. Il prezzo della verdura è logicamente leggermente più alto di quella che non si trova alla grande distribuzione, proprio perché viene coltivata con altri sistemi. Quando vai a, per dire, a contrastare la dorifola sulla patata, tramite la raccolta manuale del parassita, o comunque lasciando venire sull'erba affinché il parassita abbia meno facilità nell'individuare le tue coltivazioni, perché sono in parte coperte dall'erba, comunque un margine di danno ce l'hai. Dunque, però ti dico, se vogliamo creare un mondo che bene o male consenta a tutti di vivere un po' serenamente senza ammalarsi, penso che questa sia una strada perseguibile. Croyez-vous qu'on s'éclate quand on sent cette sale machine qui nous tue. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Qu'est-ce qu'on regrette le temps passé où notre bon fermier nous gratifiait de la chaleur de. Parleremo oggi della campagna Hate Hours, che mira a migliorare le condizioni di trasporto degli animali destinati al macello. Ce ne parlerà Adolfo Sansolini, che è il coordinatore della campagna europea. Affronteremo poi di nuovo il tema dei circhi, perché ci sono importanti novità e campagne da affrontare. La campagna sta andando bene perché intorno ai Towers si sono ormai aggregate oltre 100 organizzazioni per la protezione degli animali di tutta Europa, oltre 1.100.000 persone hanno firmato una petizione per chiedere un limite massimo di trasporto dall'allevamento al macello di 8 ore per gli animali trasportati in Europa. In questo momento gli animali possono viaggiare, come ricordavi, per giorni interi, quindi aggiungendo tortura a tortura e per nessun motivo, quando potrebbero essere uccisi vicino agli allevamenti e trasportate le carni. E la maggioranza dei membri del Parlamento europeo, 395 su 754, il 15 marzo ha fatto adottare una dichiarazione scritta, quindi un dispositivo parlamentare che ha fatto così diventare posizione ufficiale del Parlamento europeo la richiesta di un limite massimo di 8 ore. Il commissario europeo John Daly, responsabile per il benessere animale in Europa, ci ha ricevuti il 7 giugno per avere 1.100.000 firme. E durante quella discussione promise di proporre una modifica alla normativa attuale, quindi di produrre una comunicazione per una proposta legislativa che includesse il trasporto e i tempi di trasporto. Purtroppo dopo pochi giorni il commissario ha negato di aver mai detto quelle cose. Quello che chiediamo al commissario europeo è di proporre una revisione della normativa attuale con una proposta di limitazione dei tempi di trasporto. Il commissario sta rispondendo che basta applicare le norme attuali, alcune delle quali sono presenti ormai da oltre 15 anni, mai attuate, ed alcune, come hanno dimostrato gli oratori che erano presenti alla conferenza di Malta, provenienti da tutta Europa e da vari background professionali, alcune norme non sono attuabili, non è possibile controllare che gli animali siano nutriti e gli venga data acqua a sufficienza durante i lunghi viaggi, ma anche abbiamo dimostrato che la Commissione europea non sa che cosa sta avvenendo. Le risposte a interrogazioni parlamentari recenti fornite dallo stesso Dalli dicono esplicitamente che la Commissione europea non sa quanti animali muoiono a bordo dei camion ogni anno, non sa quale sia la frequenza di controlli veterinari al carico o allo scarico degli animali, non sa quali siano le sanzioni comminate, non ha il potere di armonizzare le sanzioni, per cui in un paese ci sono sanzioni alte e in altri paesi si può fare più o meno ciò che si vuole e i costi vengono incorporati nel costo del trasporto. Insomma, c'è un panorama terribile di disinteresse da parte della Commissione europea che stiamo quindi cercando di correggere con una serie di iniziative legate ai Towers. E a Malta, in conclusione della conferenza, abbiamo lanciato quello che è stato poi chiamato il Manifesto di Malta, che verrà pubblicato sul sito di iTowers fra pochi giorni, su cui chiediamo a cittadini, organizzazioni, parlamentari europei e parlamentari nazionali di tutta Europa di unirsi in un appello non più solo per la protezione degli animali, non solo per risparmiare agli animali questa immensa tortura, ma anche per chiedere il rispetto dei cittadini europei che vengono sistematicamente ignorati dal commissario Dalli. Ti voglio fare due domande flash. Da una parte la sofferenza di questi animali e l'ignoranza, diciamo, della maggior parte anche dei commissari europei stessi. Dall'altra parte, quali interessi economici in gioco? Gli interessi sono economici, ovviamente. Gli animali si allevano in paesi dove l'allevamento costa meno, vengono trasportati nei paesi poi dove vengono uccisi e ne vengono trasformate le carni, in modo che diventino tipici del paese dove sono stati uccisi. È tutta una questione economica, ma gli animali potrebbero essere benissimo macellati al punto di partenza, quindi vicino all'allevamento, e poi le carni utilizzate a destinazione. Il giro d'affari in ballo, hai un'idea della cifra? Non abbiamo idee precise perché non ci sono dati oggettivi e chiaramente la volontà è di non avere dati oggettivi. Quello Chiaro. Che sappiamo è che ci sono decine di milioni di animali trasportati vivi ogni anno, quindi stiamo parlando comunque di decine di milioni di euro. Quindi stiamo chiedendo semplicemente che si risparmino ulteriori sofferenze molto facilmente evitabili agli animali. Ultima domanda flash, che cosa rispondi a chi ti contesta che un'iniziativa del genere sembra quasi legittimare il trasporto degli animali vivi, purché limitato a 8 ore? Ma gli animali vengono trasportati comunque, vengono trasportati per giorni interi. Personalmente sono vegetariano da 29 anni e nel momento in cui la maggior parte delle persone in Europa mangia carne, dobbiamo almeno lavorare perché quegli animali soffrano di meno. Come disse una volta Jane Goodall a una conferenza rispetto a sperimentazione animale, miglioramento delle condizioni degli animali prima degli esperimenti, se io fossi uno di quegli animali sicuramente vorrei che venisse posto fine alla sperimentazione animale, nel frattempo vorrei soffrire il meno possibile. Ti ringrazio Adolfo e buona fortuna e buon lavoro per la tua campagna 8 Hours. Grazie mille. Grazie, ciao, a presto. La settimana scorsa abbiamo affrontato con Anna Maria Manzoni il caso della giraffa Alexandre, fuggita da un circo a Imola, poi inseguita, acciuffata e morta nella stessa giornata, per stress e per l'effetto probabilmente del sedativo usato dai veterinari. Dopo questo episodio il sindaco di Imola ingiunse al circo Martini, proprietario della giraffa, di lasciare il comune. Lo stesso circo era atteso nei prossimi giorni a Parma. E lì è cominciata una campagna di pressione sul sindaco affinché proibisse a sua volta l'arrivo del circo. Inizialmente il sindaco Pizzarotti, espressione del Movimento 5 Stelle, aveva affermato di non poter intervenire perché la legge non era in questo caso dalla sua parte. E nonostante il suo movimento avesse in un punto del suo programma un preciso impegno, da un lato a rendere pubblico il diniego della vivisezione, ma dall'altro a vietare proprio la sosta a circhi e spettacoli itineranti che facciano utilizzo, si diceva nel programma, di animali esotici. Alla fine il sindaco Federico Pizzarotti è arrivato alla decisione di emettere un'ordinanza in cui si proibisce fino al 31 ottobre l'utilizzo e l'esposizione di animali per attività di spettacolo e di intrattenimento pubblico. La motivazione di questa ordinanza, detta contingibile e urgente, quindi decisa per affrontare una situazione di emergenza, è che proprio la tensione, le proteste, le numerose manifestazioni di dissenso pervenute al comune in queste settimane dopo l'episodio di Imola costituiscono di per sé un concreto pericolo sia per l'incolumità degli animali sia per l'ordine pubblico. Quindi il Circo Martini non potrà rispettare il suo programma invernale nel comune di Parma. In definitiva, il sindaco di Parma ha trovato un escamotage per non incappare nello stesso ostacolo normativo incontrato tempo fa dal comune di Ferrara, che aveva proibito l'ingresso nel suo territorio comunale ad un circo con animali, ma poi i gestori dello stesso circo avevano avuto ragione di fronte al TAR, che ha sostenuto che il sindaco non poteva contravvenire a una norma dello Stato che permette e addirittura finanzia le attività circensi. Il caso di Imola, le pressioni del movimento animalista, le preoccupazioni di tanti cittadini ed evidentemente anche la sensibilità dell'amministrazione comunale hanno portato a questo risultato, che costituisce in qualche modo un precedente. Bravo Pizzarotti! Sull'onda del caso di Imola è poi ripartita una campagna contro l'uso degli animali nei circhi, che era stata lanciata già negli anni scorsi dal movimento antispecista, in particolare con una lettera modello da inviare alle amministrazioni comunali, scritta da Anna Maria Manzoni per conto di un numeroso gruppo di associazioni animaliste. Con questa lettera, che tutti i cittadini sono invitati a spedire alle amministrazioni comunali, si chiede che sia proibito l'utilizzo di animali negli spettacoli circensi, in particolare in vista del periodo natalizio, quando si concentrano gli avvenimenti di questo tipo. Già sappiamo che in Toscana sono programmati spettacoli di circo a Chiusi, a Montemurlo, a Pontassieve, a San Sepolcro, a San Giovanni Valtarno e altrove. Metteremo nel nostro blog tutta la documentazione necessaria per partecipare a questa campagna di pressione. È il momento di darsi da fare, di farsi sentire. Le cose possono davvero cambiare, come anche il caso di Parma dimostra. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Sara Razzoli, blogger di Correggio in Emilia, che collabora con la nostra rubrica di cucina, ci presenta oggi una ricetta a base di legumi. Ciao a tutti, sono Sara e oggi vi racconto la ricetta dei ceci speziati. È un piatto molto semplice, molto rapido da fare, ma anche molto molto buono e sfizioso. Vedrete che piacerà a tutti, anche a chi solitamente non mangia cucina vegetariana o vegana. Gli ingredienti sono una tazza di ceci già cotti, se avete fretta o non avete tempo di cuocerli voi va benissimo anche una lattina di quelli già pronti, un cucchiaino di curry, un cucchiaino di cumino tritato, un pizzico di curcuma, uno di paprika, uno di timo, uno di pepe nero, sale, due cucchiai di shoyu o salsa di soia e qualche cucchiaio di olio evo extravergine d'oliva. La preparazione è semplicissima. In una ciotola radunate tutte le spezie e gli aromi, unite l'olio e la salsa di soia, amalgamate bene, poi dentro questa ciotola ci versate i vostri ceci ben scolati, mescolate in modo che si impregnino bene sia dell'olio che di tutte le spezie e poi li andate a distribuire uniformemente su una teglia da forno in cui avete precedentemente messo un foglio di carta da forno. Infornate i vostri ceci in forno caldo a 180 gradi per circa 25-30 minuti al massimo. Finito il tempo di cottura, li lasciate riposare un pochino e poi ve li potete gustare così, croccanti e caldini, ancora belli fragranti, oppure li potete utilizzare come ingrediente in mezzo delle insalate, oppure pasta o riso freddo. Provateli perché sono veramente semplici da fare, ma buonissimi. Ciao, alla prossima! Per la rubrica Perla gli umani vi vogliamo presentare il libro di David Ciolli intitolato Diventa chi sei. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. est venu lamentablement se vautrer sur mon... Siamo con Davide Ciolli, che già conosciamo come autore di un libro piuttosto conosciuto, Il quinto non uccidere. A Sana Davide ha presentato un nuovo libro, molto curioso, il titolo è Diventa chi sei, sottotitolo Guida prati magica alla scoperta di sé. Davide, nel presentare questo libro, ha fatto un intervento proprio legato al tema vegan, al tema anche delle scelte alimentari e quindi della connessione fra le proprie visioni del mondo e i propri comportamenti. Qual è il nesso fra la magia posta in questi termini, forse anche un po' provocatoriamente nel titolo, e il mondo animalista e vegan? Allora, la magia, quello che intendo per magia è la nostra capacità di avere un'influenza sul mondo attraverso i nostri pensieri e le nostre azioni. Ciò che ci impedisce di avere un'influenza positiva sono dei condizionamenti che ci legano ad un modo di vedere il mondo che non è propriamente quello che ci conduce poi alla nostra vera natura. E l'alimentazione fa parte di questo vasto spettro di convinzioni. Tant'è infatti che noi ci nutriamo in un certo modo, ma non sappiamo bene se quello che facciamo è conforme alla nostra natura e se è eticamente o ecologicamente sostenibile. C'è un capitolo proprio sull'alimentazione nel libro, perché è un settore della nostra vita molto importante. Se ci riflettiamo bene ci accorgiamo che in effetti ciò che scegliamo davvero in ambito alimentare è ristrettissimo. È una presa di consapevolezza piuttosto importante, perché siamo fatti di quello che mangiamo, e se non controlliamo neanche quello che si mangia, si capisce bene, non si può sapere il risultato che avrà sulla nostra struttura. In qualche modo siamo come mangiati dal cibo di cui ci nutriamo anziché scegliere. Perché tu parli di guida prati magica? Allora, questo libro riassume molte esperienze che ho avuto in questi anni a livello di arti marziali e di crescita personale, e con l'energia e con l'alimentazione anche. Prati magica perché penso che la magia non ha niente di esoterico, di misterioso, di negativo, ma sia soltanto la nostra capacità di cambiare le cose nel mondo, e ovviamente partendo dall'esempio personale, ma anche con varie tecniche, poi riassumo nel libro, è possibile arrivare ad un nocciolo dentro noi stessi che ci permette di vedere il mondo in una prospettiva nuova e cominciare a cambiare le cose, a cambiare veramente le cose, non solo a fare teorie o belle parole. Tu pensi che il punto di arrivo sia la scelta vegan? Perché? Il punto di arrivo penso non esista, probabilmente è bretarianesimo, però la scelta vegan è fondamentale, perché si sente spesso dire sì, gli allevamenti sono una cosa ingiusta, brutta, cattiva, però la carne è necessaria, oppure si trovano 3.000 motivazioni per cui la carne va mangiata. E in effetti io mi sono accorto che qualsiasi scelta che non sia etica non può far bene alla salute, cioè non siamo un corpo e un'anima, siamo un insieme di cose che si compenetrano e si influenzano. Se facciamo scelte sbagliate che si basano sulla sofferenza, sullo sfruttamento, le conseguenze poi si rispecchiano anche a livello di salute e di ambiente, è inevitabile. Sono passato dall'onnivorismo al veganesimo in un giorno praticamente. Quindi non è vero che ci vuole un periodo di transizione lungo? No, l'unico periodo è quello di capire che non è una cosa giusta mangiare gli animali, basta un attimo. Diventa chi sei di Davide Ciolli è pubblicato da Quantic Publishing, c'è anche un sito diventachisei.it. E chiudiamo segnalando un appuntamento fiorentino per i prossimi giorni. Siamo al telefono con Alice Beni per l'evento che si terrà giovedì 18 ottobre presso la Facoltà di Agraria, aperitivo a favore di Sea Shepherd. Come nasce questo evento? Ho conosciuto durante la manifestazione che c'è stata pochi mesi fa per l'arresto di Paul Watson i ragazzi appunto di Viareggio, che organizzano aperitivi, incontri, proprio per parlare di questa organizzazione, per farla conoscere in Toscana e anche in Italia. Parlando con loro mi hanno spiegato un po' di cosa facevano e che avrebbero voluto anche far conoscere questa organizzazione a Firenze. Ho proposto al collettivo di Agraria, che solitamente fa aperitivi per associazioni, per organizzazioni ecologiste, ambientaliste, gli ho proposto appunto di fare un aperitivo per far conoscere a Firenze, la nostra università, cosa fa questa associazione. Sono stati molto entusiasti di fare questo aperitivo. È normale per aperitivi che si tengono nelle università, nelle facoltà, fare degli aperitivi vegani? Solitamente gli aperitivi ad Agraria sono sempre vegetariani, all'interno di Sea Shepherd nelle barche proprio si mangia vegano e quindi i ragazzi di questa organizzazione sono vegani e quindi abbiamo optato per fare un aperitivo vegano. Grazie Alice, e se vuoi invitare gli amici che ci stanno ascoltando? Giovedì 18 ottobre dalle 19 in poi all'Università di Agraria nel piazzale delle Cassine si terrà un aperitivo vegano con i ragazzi di Sea Shepherd. Che cos'è? Che cosa fanno? Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti trasmissioni nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Potete scriverci a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. The feelings disappear. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.